fretta di morte di noce sfonde a te sul cap. Esultando sinceri, fervidi amori, io vi la docete nos. Vos gaudi adite, timpana, timpana et organa. Sic in vestis vestis gaudete, ergo cantate.